teoria delle stringhe è nata. È democratico perché. Per OGM si intende. L'effetto placebo. Da Vicond. È rimasta quella di Darwin. La mia risposta è che non lo so. Caccia al fotone. Scienza e dintorni su Radio Città Fujiko. A cura di Fabio De Sicò. Sabato 23 ottobre 2010 e benvenuti a un'altra puntata di Caccia al Fotone. Su internet www.cacciafotone.it. E dopo una serie di puntate piuttosto tecniche in cui ci siamo occupati di informatica quantistica, di biologia molecolare, di astronomia e di altre tematiche piuttosto spinose, questa settimana invece ci andremo ad occupare di comunicazione scientifica come piace a noi, quindi comunicazione open access. Ce ne andremo ad occupare fondamentalmente perché questa è stata la Open Access Week, la settimana dedicata alla comunicazione fatta attraverso la modalità open access. Ecco, questa trasmissione sarà divisa fondamentalmente in due blocchi. Nella prima parte della trasmissione cercheremo di spiegare che cos'è l'open access, quali sono i vantaggi e soprattutto andremo ad esplorare anche quali sono i suoi limiti intrinseci, mentre nella seconda parte della trasmissione cercheremo di esplorare un progetto europeo intitolato Open Air, un portale europeo in cui verranno depositate tutte le ricerche scientifiche che sono partite grazie a dei finanziamenti dell'Unione Europea. Nella prima parte della trasmissione saremo in compagnia del professor Pacagnella, professore di sociologia della conoscenza presso l'Università di Torino. Buongiorno professor Pacagnella. Grazie, buongiorno. Professor Pacagnella, nella prima parte della trasmissione abbiamo 100 parole per introdurre, le classiche 100 parole iniziali di Caccia Fotone. Ecco, in 100 parole riuscirebbe a spiegare esattamente o almeno in maniera molto semplificata che cos'è il concetto di open access? Ma l'open access è una, possiamo chiamarlo, una modalità di diffusione della conoscenza scientifica, che questa conoscenza può essere sotto forma di articoli o di libri, tale per cui questi testi vengono messi a disposizione di un pubblico senza barriere di tipo tecnico o economico, quindi sostanzialmente si tratta di mettere online, grazie agli strumenti della rete, testi che siano liberamente scaricabili, comunque la certificazione che si ha normalmente nel circuito della comunicazione scientifica. Credo che questo in nuce sia questo, insomma, il cuore dell'open access. Perfetto professor Pacagnella, a questo punto ci andiamo ad ascoltare un piccolo pezzo musicale, poi torniamo in studio e quando torneremo in studio cercheremo di parlare della modalità aperta di pubblicazione e cercheremo di capire soprattutto, come abbiamo già detto, se ci sono dei limiti al suo interno che devono essere ancora superati. A dopo. È la stampa, bellezza, la stampa, e tu non ci puoi far niente. Mark the devil by a stone, and rot they surely go. So I've come to stake my claim, along Main Avenue. I believe that this here town was built on all the ground. Down underneath our feet are treasures to be found. I dig for friendship, I dig for love, I dig for all the things that I've been dreaming of. Every penny that I've earned got me this inch of land, and every rock and speck of dirt has my name in the book. So I'm armed with little more than clothes upon my back, and if the rock could only talk, they'd tell me where to look. I dig for wisdom, I dig for health, I dig for all the holy. E bentornati in studio, cari radioascoltatori, qui all'ascolto di Caccia Fotone. In questa puntata non ci stiamo occupando tanto del contenuto di una qualche ricerca pubblicata su un qualche giornale scientifico, ma ci stiamo occupando tanto del sistema di pubblicazione in modalità open access. Ce ne stiamo occupando espressamente di questo argomento perché questa settimana è la cosiddetta Open Access Week. Ce ne stiamo occupando nella prima parte della trasmissione insieme al professor Luciano Paccagnella, professore di sociologia della conoscenza presso l'Università di Torino. Ecco, se lei dovesse definire qualche tratto distintivo della modalità di pubblicazione open access versus la vecchia modalità di pubblicazione, quale segnalerebbe come più importante degli altri? In principio, se possiamo chiamarlo così, etico o di responsabilità sociale, ovvero che la ricerca scientifica finanziata con dei soldi pubblici deve in qualche modo essere restituita nei suoi risultati alla collettività che la finanzia. Questo in altre parole vuol dire che tutte quelle istituzioni di ricerca pubbliche, cioè le università pubbliche e i ricercatori, gli scienziati che ci lavorano, ricevono il loro stipendio, per modesto che sia, ricevono il loro stipendio per produrre dei risultati, e questi risultati devono in qualche modo essere messi a disposizione della collettività che paga il funzionamento di queste strutture pubbliche attraverso forme di pubblicazione ad accesso aperto, ovvero la collettività o il lettore colto generico non deve dover pagare una seconda volta, ha già pagato attraverso le tasse, attraverso il finanziamento pubblico della ricerca. Quindi il principio è questo. Poi ci sono diverse strade per mettere in pratica questo principio, quindi ci sono diverse forme di open access, di accesso aperto, ma il principio è un principio etico, insomma restituire alla collettività il frutto della ricerca scientifica finanziata con fondi pubblici. Professor Paccagnella, la interrompo un attimo perché le vorrei chiedere qualcosa che secondo me è il nodo un pochino della distinzione, della differenza fra la comunicazione classica e la comunicazione open access. Ecco, la comunicazione classica in qualche modo privilegia un filtro fra le cose che si vorrebbero pubblicare e le cose che poi effettivamente vengono pubblicate. Invece nella comunicazione open access tende a permettere a più persone possibili di pubblicare i propri lavori. La domanda è quindi se attraverso la modalità di pubblicare in open access si privilegia più la quantità piuttosto che la qualità. Sì, è una cosa molto importante. L'open access è un principio in base al quale la letteratura scientifica deve essere resa disponibile, no? La parola stessa, open access, che significa semplicemente accesso aperto, richiama l'attenzione sulla possibilità che un pubblico composto da colleghi ricercatori, ma anche un pubblico generico, possa accedere alla letteratura. Nulla ci dice l'open access a proposito della qualità di questa letteratura, ovvero l'open access si occupa semplicemente di abbattere le barriere tecniche e soprattutto economiche che talvolta rendono difficile o impossibile, per questione di soldi essenzialmente, accedere alla letteratura scientifica. Questo è un problema molto, molto grosso e molto sentito soprattutto in questi ultimi anni dalle biblioteche. Ormai tutte le biblioteche delle università sono in grave difficoltà perché non riescono più a sostenere i costi di abbonamento alle riviste scientifiche, che svolgono la loro azione ormai in un regime di sostanziale oligopolio, cioè c'è stata una concentrazione editoriale negli ultimi anni anche in questo campo, che fanno un po' una politica dei prezzi di tipo oligopolistico. Una biblioteca scientifica di un'università non si può permettere di disdire l'abbonamento a una rivista perché questo costa troppo, perché l'abbonamento alla rivista è il pane quotidiano di una biblioteca e dei ricercatori. Quindi questi sono costi che devono essere sostenuti, ma che non ci sono più i soldi per sostenere. Quindi c'è un grosso problema economico da parte delle biblioteche. L'open access vorrebbe tentare di rispondere a questo problema fornendo modalità di disseminazione di letteratura a costi praticamente nulli. Però tutto questo non ha nulla a che fare con la qualità della letteratura. Cioè l'open access, nel momento in cui si diffonde, come sta avvenendo in questi ultimi anni, renderà disponibile a chiunque una quantità smisurata, ma rimarrà poi il problema di riuscire a rendersi conto, di riuscire a valutare, a trovare dei parametri di giudizio per capire quanta di questa letteratura è effettivamente letteratura seria, autorevole, condotta secondo dei criteri metodologici validi, o anche semplicemente è letteratura utile per quello di cui ci stiamo occupando. Quindi l'open access è una cosa che riguarda la quantità, che pure è una cosa molto importante, cioè rendere disponibile la letteratura. Altro discorso è invece tutto quello che riguarda la valutazione, questa è un'altra questione estremamente importante di cui si dibatte moltissimo oggi, cioè trovare dei criteri per riuscire a valutare e anche a distinguere la buona ricerca scientifica dalla ricerca mediocre, ma questa è una questione, per quanto importante, che non è direttamente collegata all'open access, all'accesso aperto, che appunto si occupa solo di mettere a disposizione, trovare delle strategie, dei modelli anche economici, di sostenibilità economica, per mettere a disposizione del pubblico la letteratura scientifica. Senta, in sostanza la modalità open access in qualche modo privilegia il peer review nella maniera più classica del termine, oppure in qualche modo privilegia l'analisi da parte dell'utente che va ad analizzare i contenuti della ricerca specifica che sta leggendo? Ma per rispondere a questa domanda si può fare riferimento a quelle che sono genericamente indicate come le due strade verso l'open access, cioè il movimento open access ha esplorato fino adesso due strade ben diverse, che sono ben note come la strada cosiddetta verde, la green road e la gold road, cioè la strada verde e la strada aurea verso l'open access. La strada verde è semplicemente quella che richiede ai ricercatori di pubblicare normalmente i loro prodotti più autorevoli, quindi sottoponendosi ai processi di peer review come da tradizione, e poi in più, cioè in aggiunta a tutto questo, pubblicare, o meglio non pubblicare ma depositare una copia dei loro lavori all'interno di archivi istituzionali o disciplinari ad accesso aperto. In questo modo il potenziale lettore interessato riesce ad accedere a questi contributi in forma aperta, ma può allo stesso tempo godere anche delle forme o dei criteri di validazione che sono quelli tradizionali della ricerca scientifica, cioè accede in forma aperta a un articolo che è stato pubblicato anche sul British Journal of Sociology, per esempio, o comunque su riviste tradizionali. Cioè la via verde è quella dell'autoarchiviazione. Chiaro che in questi archivi si possono trovare sia articoli che sono stati sottoposti a processi di peer review, sia anche articoli o testi generici che non hanno subito nessun processo di validazione scientifica e quindi possono anche potenzialmente essere articoli o testi di nessuna validità scientifica. La seconda strada invece è una strada un po' più complicata, la cosiddetta Gold Road, cioè la strada aurea, che è quella che prevede la nascita di vere e proprie riviste open access, cioè di riviste scientifiche che si dotano di criteri di selezione dei contributi del tutto analoghi a quelli delle riviste tradizionali, quindi attraverso dei comitati editoriali e attraverso i meccanismi della peer review e così via, che quindi selezionano i propri contributi, e una volta che un articolo appare su una di queste riviste si può essere ragionevolmente certi che ha superato almeno un processo di selezione e quindi è in qualche modo validato, ad accesso aperto, ovvero non diffuse tramite abbonamento, bensì liberamente disponibili online. È chiaro che in questo secondo caso si pone un problema di sostenibilità economica, cioè i costi economici necessari per mantenere una struttura di questo tipo, quindi per organizzare, per esempio, per coordinare il processo di peer review, sono dei costi che nel modello tradizionale di editoria vengono sostenuti da chi legge le riviste e acquista gli abbonamenti, cioè in parole povere, come si dice nel gergo, paga chi legge, no? Il lettore paga l'abbonamento e questi soldi servono per coprire le spese di funzionamento dell'organizzazione. Nel caso della Gold Road verso l'Open Access, le riviste Open Access non si sostengono più attraverso gli abbonamenti, quindi non hanno più modo di coprire le proprie spese, ma coprono questi costi al contrario attraverso un modello paga chi scrive, cioè sono gli autori stessi che danno il loro sostegno, il loro contributo per pubblicare su queste riviste. Questa è una cosa solo apparentemente insensata, perché in realtà nel mondo in cui ci troviamo a vivere, ci troveremo a vivere ancora di più nel prossimo futuro, questi costi, cioè questi soldi in pratica, queste voci di spesa che i ricercatori devono sostenere per poter pubblicare su una rivista open access, sono semplicemente da intendersi come spese che sono parte integrante del processo di ricerca scientifica, cioè nel momento in cui io ottengo un finanziamento per condurre una ricerca, devo tenere presente che una voce di questa ricerca sarà quella dedicata proprio alle spese per la disseminazione di ricerca scientifica. L'obiettivo ultimo di qualunque forma di comunicazione scientifica è quella di essere il più possibile letta da un pubblico indifferenziato, e quindi in questo senso ci troveremo di fronte a uno scenario per cui sempre più spesso noi ricercatori dobbiamo prevedere delle voci di spesa dedicate a coprire anche i costi di pubblicazione e di disseminazione. In questo modo questi costi non dovranno più essere sostenuti da chi legge, da chi paga gli abbonamenti non ci saranno più, e il risultato complessivo sarà che la ricerca scientifica sarà resa accessibile sia a persone che non avrebbero potuto permettersela, sia in comunità scientifiche di paesi magari in via di sviluppo che hanno poche risorse per finanziare le proprie biblioteche, e quindi si spera che in questo modo sarà la collettività nel suo complesso a godere di maggiori benefici, ecco. Professor Paganiello, a questo punto le faccio l'ultima domanda che un po' fa da conclusione a questa prima parte di Caccia Fotone. Ecco, da quello che ci ha detto, in qualche modo attraverso l'open access si lascia più spazio, si lascia più peso al lettore in luogo del vecchio editore che prima faceva da filtro, e ora invece il filtro viene lasciato fondamentalmente un pochino di più al lettore. Domanda: vale la pena comunicare non solo il contenuto ma anche il metodo? Ma vale sicuramente la pena, non solo per una questione così genericamente di educazione, più perché già oggi ci troviamo in un mondo in cui la scienza viene prodotta non solo all'interno dell'accademia, non solo attraverso le modalità tradizionali, ma in qualche forma anche attraverso forme di collaborazione tra scienziati tradizionali e un pubblico colto generico. Cioè sempre più spesso ognuno di noi, non solo i ricercatori, non solo gli scienziati, ma ogni singolo individuo di questa società della conoscenza si trova oggi e si troverà sempre più spesso in futuro di fronte a numerose occasioni in cui deve saper valutare ciò che legge, sui giornali, sui libri, ma anche in internet, e deve imparare a sviluppare strumenti per giudicare l'autorevolezza, l'affidabilità di quello che legge. Questo vale sia stato l'abstract di una rivista, oppure anche direi la metodologia, almeno a grandi linee, attraverso cui si è giunti a un certo risultato. Quindi se si tratta di un sondaggio, se si tratta di una ricerca campionaria, quale campione, che tipo di questionario, eccetera, eccetera. Cioè un minimo, una conoscenza almeno rudimentale di come funziona la scienza, ma anche aggiungerei strumenti per valutare la conoscenza nel suo complesso, quindi parliamo di cose come Wikipedia, no? Ognuno di noi si trova ad usare Wikipedia, e non è vero che non ci sia alcun modo per valutare l'autorevolezza di ciò che troviamo scritto su Wikipedia. Ci sono dei modi, ci sono degli stratagemmi, dei trucchi se vogliamo, delle competenze più o meno tecniche che hanno dei risultati più o meno evidenti, ma sono tutte parte di una competenza generale che oggi è più che mai indispensabile ad acquisire e a mettere in pratica. Quindi direi che l'open access in questo senso è una parte di un lavoro direi più generale di apprendimento e educazione a una valutazione della conoscenza che non è solo conoscenza scientifica, ma che è conoscenza in senso molto generale e di cui oggi noi siamo sempre di più inondati, cioè la conoscenza non è più scarsa, viviamo in una società che sarà della conoscenza abbondante, quindi il problema, una volta risolto, come tutti speriamo, il problema dell'accesso, del semplice accesso, il problema si sposterà proprio sul versante della valutazione, che è la seconda grande questione accanto all'open access oggi. Professor Pacagnella, a questo punto la ringrazio per la disponibilità, andiamo ad ascoltare un piccolo pezzo musicale, poi torniamo in studio e nella seconda parte della trasmissione parleremo di un progetto intitolato Open Air in compagnia della dottoressa Paola Gargiulo, responsabile dei progetti Open Access di Caspor. Non serve dirvi che le cose vanno male, tutti quanti sanno che vanno male. Bentornati in studio, cari radioascoltatori, in questa puntata particolare di Cacciafotone in cui non ci stiamo occupando tanto dell'argomento di una qualche ricerca scientifica, ma ci stiamo occupando delle metodologie di pubblicazione di una ricerca scientifica. Ne stiamo parlando fondamentalmente in questa puntata perché questa è la Open Access Week. Nella prima parte della trasmissione abbiamo ascoltato la voce del professor Pacagnella e col professor Pacagnella abbiamo parlato un pochino di quali sono i vantaggi e soprattutto quali sono gli svantaggi di questa metodologia di pubblicazione. Nella seconda parte della trasmissione invece saremo in compagnia della dottoressa Paola Gargiulo, responsabile dei progetti Open Access di Caspor e con la quale andremo a parlare del progetto Open Air, che è un progetto europeo per pubblicare lavori scientifici finanziati dalla comunità europea in modalità open access. Ecco, dottoressa Gargiulo, se dovesse definire quali sono i tratti distintivi che differenziano il progetto Open Air da un altro progetto dove si può pubblicare in modalità aperta, quali sarebbero effettivamente questi tratti distintivi? Quel progetto Open Air è un progetto finanziato dalla Commissione europea che intende dare massimo impatto e visibilità all'output scientifico dei ricercatori europei. Questa è la finalità principale del progetto, perché la Commissione europea crede che in Europa sia importante che la ricerca finanziata con fondi pubblici abbia il massimo di impatto non solo sulla comunità scientifica europea, ma anche sui cittadini europei, e che aiuti anche alla competizione e anche al trasferimento tecnologico e di conoscenze all'interno dell'Europa. Senta, effettivamente questo progetto quando è nato e soprattutto in che modo è nato, quindi chi l'ha fatto nascere? Quel progetto è nato quando appunto si è pensato di partecipare a uno dei bandi del settimo programma quadro. In effetti questo progetto è la continuazione di un progetto precedente che si chiama Driver. Driver è un progetto che ha avuto lo scopo di creare un'infrastruttura tra gli archivi istituzionali presenti nelle università e negli enti di ricerca europei, e lo scopo di questa infrastruttura è quello di collegare questi vari server, e lo scopo invece del progetto Open Air è di andare a popolare questi server, diciamo questi grossi archivi con i contenuti, cioè quindi con gli articoli scientifici scritti dai vari ricercatori europei in alcune discipline scientifiche. Senta, dottoressa, senza entrare nei termini fumosi, effettivamente Open Air altro non è che un repository, un sito all'interno del quale vengono messi alcuni lavori finanziati dall'Unione Europea, e questo è il concetto. Sì, il concetto è che Open Air disporrà di un portale, in effetti il portale c'è già, il portale può essere visitato all'indirizzo www.openair.eu, quindi il portale già esiste, per ora dà una serie di informazioni, non ha ancora dei contenuti, ma nei prossimi mesi, man mano che verranno pubblicate degli articoli che sono il risultato di ricerche appunto finanziate dalla Commissione europea in 7 aree disciplinari che sono energia, ambiente, salute, ICT, quindi Information and Communication Technology, in particolare gli aspetti legati a sistemi cognitivi, interazione essere umano e macchina, robotica, e poi infrastrutture di ricerca, scienze e società, scienze socio-economiche. Quando questi articoli verranno, come dire, pubblicati, perché gli autori appunto in seguito alle ricerche che avranno fatto, finanziate dalla Commissione appunto europea, questi articoli saranno accessibili attraverso questo portale, cioè chiunque potrà collegarsi al portale, potrà fare, come dire, la ricerca e navigare fra i vari articoli ed accedere al testo completo dell'articolo. Questi articoli saranno disponibili entro 6 mesi dalla loro pubblicazione sulle varie riviste scientifiche nel caso dei settori disciplinari scientifici, e dopo 12 mesi nelle scienze sociali e nelle scienze umane. Quindi, come dire, in futuro Open Air sarà il portale dove noi potremo vedere tutto quello che è stato, come dire, pubblicato in Europa e che è stato finanziato dalla Commissione europea in questi 7 settori di cui parlavo prima. Si pensa che in futuro la Commissione europea intende espandere, come dire, questo progetto a tutte le aree disciplinari che vengono finanziate dalla Commissione europea nei vari programmi quadro, quindi il prossimo programma quadro che sarà l'ottavo, nel nono, il decimo e così via. Senta, dottoressa Gargiulo, effettivamente questo portale è rivolto verso i giornalisti o verso il pubblico? Perché in qualche modo i giornalisti a queste ricerche hanno accesso molto prima. Lei ha detto che le ricerche vengono pubblicate su questo archivio, sull'archivio di Open Air dopo 6 mesi, quindi i giornalisti in qualche modo a queste ricerche hanno già avuto accesso attraverso archivi o liberi tipo PLOS o tipo Archive, oppure attraverso archivi come Science and Nature, che liberi non sono e che sono a pagamento. Quindi, in sostanza, per fare una sintesi, è un archivio rivolto espressamente al pubblico. Ma questo portale è rivolto all'intera cittadinanza europea, ma vuole essere anche uno strumento per la Commissione europea stessa, per poter valutare quello che è l'output scientifico europeo, perché una delle finalità del progetto è anche appunto quello poi di mettere a punto delle metriche di valutazione dell'output scientifico europeo, quindi va a vedere anche le statistiche d'uso, vedere che tipo di impatto questi, un po' come c'è anche in PLOS, questa metrica a livello di articoli, oppure vedere se c'è del cosiddetto trackback, cioè se questi articoli vengono citati, non so, nel blog o vengono citati nella stampa online. Quindi, come dire, ha diverse funzioni: uno quello di dare il massimo di visibilità, e l'altro anche di studiare un po' quello che l'impatto che questa produzione scientifica, che è finanziata con fondi pubblici, ha nella società in generale. Senta, dottoressa Gargiulo, con che modalità verranno ripubblicati su Open Air gli articoli finanziati dalla Comunità Europea? Dunque, gli articoli, l'idea è che immediatamente verranno depositati sicuramente i cosiddetti metadati, cioè quindi tutte le informazioni che permettono di identificare l'articolo e quindi l'autore, il titolo, l'abstract, la rivista nella quale sono stati, come dire, pubblicati. Poi, se gli articoli sono pubblicati in riviste stile PLOS, cioè in riviste che sono open access, cioè che nascono open access e quindi dove non c'è bisogno di nessun periodo di embargo, così viene detto, quindi gli articoli saranno accessibili immediatamente. Perché il progetto vorrebbe che appunto l'articolo fosse accessibile nel full text immediatamente. Se invece l'articolo viene pubblicato con gli editori appunto scientifici che non permettono, come dire, questo open access immediato, o perlomeno non permettono l'open access immediato, diciamo, della versione ufficiale dell'editore, perché la maggior parte di questi editori permettono la diffusione immediata del cosiddetto post print. Il post print è la versione finale del manoscritto, diciamo quella che è uguale nel contenuto a quella che apparirà sul sito dell'editore o che sarà nell'articolo a stampa, se la rivista è ancora pubblicata a stampa, però mancano, come dire, gli aspetti formali e quindi l'impaginazione, il logo dell'editore. Comunque, per concludere, l'obiettivo sarebbe il deposito immediato, ma in alcuni casi, diciamo così, della versione dell'editore sarà possibile solo dopo 6 mesi o 12 mesi. Quindi in sostanza, visto che vengono pubblicati subito gli articoli open access, ma erano già open access e magari già pubblicati su PLOS, e gli altri articoli vengono pubblicati 6 mesi o 12 mesi dopo a discrezione dell'autore, questo non è uno strumento fatto per il pubblico, ma è sostanzialmente uno strumento fatto per una statistica per l'Unione Europea. Certo, questo, come dire, è una, non, diciamo così, che non è la finalità, come dire, principale, perché esistono altri strumenti in cui questi articoli, come dire, vengono valutati all'interno delle stesse comunità scientifiche o nei progetti di valutazione nazionale che vari paesi hanno per quanto riguarda il proprio output scientifico, però sicuramente, come dire, la Commissione Europea vuole avere un collettore di tutta la produzione scientifica, cosa che non abbiamo ancora, perché in fondo poi questa produzione scientifica, come dire, è un po' sparsa appunto nei vari archivi istituzionali che le varie università hanno o negli archivi disciplinari, come lei citava, come archive. Invece appunto questa crea l'occasione di poter, come dire, avere quest'unico collettore, quindi su questo la Commissione Europea vuole fare due cose: uno, dare il massimo di accesso e quindi visibilità, e l'altro anche di incominciare a fare un discorso di valutazione, anche di capire quali sono i settori, come dire, anche più trainanti, o i settori più importanti, o quelli forse su cui si bisognerebbe investire anche di più, insomma, comunque un'analisi più puntuale sull'output scientifico europeo. Dottoressa Gargiulo, la ringrazio per la pazienza con cui ha voluto rispondere alle nostre domande. A questo punto si conclude la trasmissione di questo sabato di Caccia Fotone. Saluto tutti coloro che hanno ascoltato Caccia Fotone sia tramite Radio Città Fucico sia tramite il sito di Caccia Fotone, che è www.cacciafotone.it, e come al solito vi auguro una buona scienza a tutti. A sabato prossimo, ciao!